La versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori del 24, 16:30 primi, precisi oggi, incredibile, in diretta qui dagli studi di Milano. Vi saluta e vi ringrazia la versione di Oscar, Oscar Giannino, per l'ascolto in diretta o in podcast. Come sempre l'indirizzo, la versione di Oscar @24.it. grazie dei tantissimi messaggi per la storia ancora della norma del decreto fiscale di cui abbiamo parlato ieri, la presunzione di reddito nero in caso di prelievi per i piccoli imprenditori, eccetera eccetera eccetera. Detto tutto questo, di che cosa parliamo oggi invece? Per vedere se volete intervenire all'800240024 o per i messaggi, lo sapete, gli sms 349-238-6666. Vi dico subito che parliamo della RAI e parliamo del canone RAI. Di che cosa si tratta? Sapete benissimo, premessa, che le promesse, premessa sulle promesse di Renzi, che aveva trattato il tema in diverse Leopolde prima di diventare Presidente del Consiglio, in particolare una volta 4 anni fa, erano quelle di cedere due reti RAI, di concentrare su una rete RAI il servizio pubblico, e si parlava di limitarne la pubblicità. E niente, tutto questo abbiamo visto una volta poi che è avvenuto il governo Renzi. Abbiamo visto una norma che ha modificato la governance della RAI. Alla testa c'è Campodall'Orto, ma al di là di lui personalmente è cambiato lo status, per così dire, nel senso che è un manager scelto dal governo, quindi dalla RAI dei partiti siamo andati a una RAI in cui c'è il forte imprinting e controllo direttamente del governo. E quanto invece ai meccanismi di pubblicità, al netto della pubblicità che non c'è più nei tanti canali tematici, quelli per i bimbi da maggio di quest'anno, l'intervento che si è visto è stato quello del canone in bolletta elettrica. Da quest'anno l'importo del canone in legge di bilancio scende poi dai 100 euro di quest'anno a 90 euro, ma ecco, gli interventi sono stati questi, di segno molto diverso da quelli che erano stati preannunciati. A fronte di questo, ed è l'argomento della puntata, da qualche tempo a questa parte gira una controproposta, secondo me è fondata, vale la pena parlarne, nel mio mondo ideale bisognerebbe perseguirla, ma non basta che piaccia a me perché sia una buona proposta, perché magari piace a me, ma come è noto io ho idee iperminoritarie e magari a volte infondate. Di che cosa si tratta? Ecco, si tratta del fatto che più volte, a dire la verità, già dall'anno scorso, l'editore della 7 Cairo, che poi è diventato anche l'editore a fronte di una gara aperta sul mercato di Rizzoli Corriere della Sera, una gara vinta, una delle poche gare dove davvero ci si è misurati per la contendibilità di un grande gruppo italiano, a maggior ragione di uno editoriale. Ecco, Cairo aveva più volte detto in passato, virgolette, se con il canone di abbonamento in bolletta la RAI incasserà 280 milioni in più, allora, dice Cairo, bisogna rivedere le quote di pubblicità della TV pubblica, magari togliendo gli spot da due reti. E questa era la prima versione, per così dire, del pensiero Cairo, dicendo l'effetto comunque del canone in bolletta è un aumento considerevole delle risorse RAI per via del fatto che in meno si sottraggono. Voi sapete che poi bisogna vedere quante davvero ne entreranno, che una parte di queste risorse è stata comunque dirottata dal governo ad altre finalità. Però detto questo, Cairo diceva comunque loro hanno più risorse rispetto a noi, perché ecco, nell'ultima settimana, la settimana scorsa, a seguito di una delle tante maratone che il direttore del telegiornale dei servizi giornalistici della SET, Enrico Mentana, ha per l'ennesima volta, in occasione di un grande avvenimento dedicato quella volta naturalmente alla notte elettorale di Trump, la proposta ha preso un segno diverso, anche se in realtà il significato è lo stesso, cioè a fronte di un avvantaggiarsi ulteriore dell'ircocervo pubblico quando deve essere privato e privato quando deve essere pubblico, che è la RAI, avvantaggiarsi di risorse per effetto del canone in bolletta, ma perché non pensare allora di iniziare a mettere a gara pubblica una parte degli introiti aggiuntivi per effetto del canone in bolletta, iniziando ad aprire un contesto di evidenza pubblica di gara per le altre reti televisive italiane che, in vista della sua aggiudicazione, corrispondano a degli standard di servizio pubblico. Perché il servizio pubblico lo possono fare privati se coerenti a uno standard da definire, a prescindere dal fatto che l'azienda sia a controllo e a gestione pubblica e politica, ma anche se sono privati. Ecco, questo per me, e ho finito l'introduzione, è un pensiero intelligente, perché nel mio mondo ideale la concessione di servizio pubblico dovrebbe essere messa sempre regolarmente a gara, nel senso che una volta definito lo standard preciso di che cos'è servizio pubblico, e quindi non una cosa che è contemporaneamente commerciale e pubblica, ma il servizio pubblico, una volta che si definisce che cosa sia quello, quello va messo a gara, perché non è affatto detto che debba appartenere secoli natural durante alla RAI. Questa è la mia personale opinione, però riconosco l'intelligenza a Cairo di aver fatto il ragionamento sia sul totale del monte risorse pubblicità che si sommano ai maggiori proventi di canone, e questo è un fatto che resta. Però lui all'inizio proponeva, a questo punto loro devono avere un tetto pubblicitario più basso, e questo ulteriore sviluppo invece di un'idea buttata lì, vabbè, ma allora perché non iniziamo a dedicare parte dei maggiori proventi a una gara pubblica per chi fa servizio pubblico aperta a tutti, quelli che siano in regola e si conformino a questo standard? Questo è un ulteriore passo, secondo me, che denota una certa intelligente, non arrogante, non unilaterale, e neanche viziata dal fatto di dire buttiamo la RAI a mare, però posizione che intende continuare a volere spingere verso un'evoluzione del sistema dell'offerta televisiva italiana meno anomala di quanto non sia qui. Io ricordo, ma l'abbiamo detto mille volte, che il modello di finanziamento delle televisioni pubbliche, di servizio pubblico in Europa è diverso. C'è chi ha fatto la scelta di finanziare il servizio pubblico solo con fiscalità generale, non con canone. C'è chi ha fatto la scelta di la BBC, per esempio, concentra la pubblicità solo sulle reti BBC che non adempiono alla charter del servizio pubblico in Gran Bretagna, dove invece non c'è. Qui i modelli sono diversi. Il modello italiano è un modello, a dire la verità, molto anomalo. Ecco, questa è la mia introduzione. Per parlarne, due esperti veri. Cioè, abbiamo con noi Marco Mele del Sole 24 Ore, che da anni e anni affilatamente esamina bilanci, proventi, gestioni delle imprese culturali, multimediali, ma quindi anche editoriali e anche televisive, soprattutto nel nostro paese. Grazie Marco di essere con noi. Eccoci, buonasera, ciao. È Marco Gambaro, che insegna economia dei media all'Università Statale di Milano. Buon pomeriggio, professore. Buongiorno a tutti, ciao Marco. Cominciamo con Marco Mele. Tu che dici dell'idea, della duplice veste dell'idea di Cairo? Dunque, dico intanto una premessa. Se si fa questa scelta, bisogna avere una legge, cioè non è una scelta che si può fare con l'attuale stato normativo. Con l'attuale normativo c'è un solo concessionario, e questo già è un punto fermo, però è anche, diciamo, un ostacolo, un paletto rispetto alla possibilità di arrivare, perché fare una legge basta vedere, appunto, è sempre un concessionario solo, anche tutti i calcoli del canone, poi magari ne parleremo, il canone ex aggetto, è sempre un concessionario solo e lo Stato, sono sempre questi due soggetti. C'è qualche spiraglio, diciamo, qualche novità, per esempio il fatto che le televisioni locali siano state dette di pubblica utilità dalle ultime leggi, come quella sulle editorie, anche dall'ultima legge di stabilità, però francamente sono dei soggetti che non sono in grado attualmente di esercitare o di fare servizio pubblico, hanno una crisi irresistibile veramente. E poi ci sono alcuni esempi all'estero, dei fatti all'estero, nel foro in Gran Bretagna praticamente, esatto. E cioè una televisione che però è una televisione che fa servizio pubblico ma senza i soldi del canone, esatto. Li fa con un praticamente una percentuale degli introiti pubblicitari dei soggetti privati, che però fa servizio pubblico soprattutto per alimentare i produttori indipendenti nazionali britannici. E quindi infatti abbiamo in tutta Europa un però aspetta ti interrompo solo per spiegare meglio a chi è in ascolto che magari non ha presente il modello Channel 4, sia pure con la caratteristica che hai detto tu, cioè di avere accesso a proventi di sistema, per così dire, con questa clausola che è un po' la versione britannica della clausola a difesa dell'eccezionalità culturale in Francia, comunque è, sia pure sotto questa specie, con questa particolarità, un modello di servizio pubblico diverso e aggiuntivo, ecco, rispetto alla Royal Charter. Ah sì, certo. Ecco, quindi non è l'idea di Cairo una cosa che viene dal pianeta chissà quale. Cioè, ci sono esempi concreti. Sì. Oh, e poi c'è un'altra ovviamente obiezione di fondo, cioè è possibile con le regole europee dare finanziamenti pubblici a soggetti privati senza incorrere nei famosi aiuti di Stato? C'è il protocollo di Amsterdam che dà agli Stati membri la possibilità comunque di finanziare servizi pubblici. È accettabile dall'Unione Europea il fatto che alcuni compiti di servizio pubblico siano gestiti da privati? Io metto il punto interrogativo e non dico né certo. La domanda, quantomeno la domanda poi va posta. Ti faccio un'ultima domanda, poi iniziamo a sentire la prima impressione generale del professor Gambaro. È chiaro che una proposta di questa tipa, stiamo parlando di proposta, non sto parlando di una immediata fattibilità politica eccetera eccetera, turberebbe un equilibrio a cui anche, diciamo, il non so Sky nelle tue valutazioni, ma insomma Mediaset non sarebbe indifferente. Tu che pensi? Io penso sì, non, assolutamente Mediaset non sarebbe assolutamente indifferente. In passato Mediaset ha provato molti anni fa, però diversi anni fa, a dire in fondo Canale 5 è il canale nazionale, è il canale approvato, ma non ha mai seriamente avanzato ipotesi o proposte per riscuotere una parte del canale in cambio di compiti di servizio pubblico. Anzi, però, l'impostazione pluriennale è sempre stata quella di quieta non muovere sulla RAI. Perché se, sì, assolutamente, anzi di lasciare la RAI servizio pubblico così com'è, e, anzi né di privatizzare una rete, esatto. Mediaset è sempre contrario, privatizzare una rete, anche di lasciare una rete RAI senza pubblicità, che pure stava in una legge, non si è mai attuato, perché comunque modificava l'equilibrio, esatto, l'equilibrio del sistema duopolistico, questo non c'è dubbio. Che non c'è e più, certo, perché Sky adesso, voglio dire, li batte come risorse, però l'impostazione diciamo resta quella. Sì, li batte come risorse complessive, però calcoliamo anche che come ascolti e strumento di consenso le Mediaset contano molto più, esatto, di Sky. Penso, gli analisti non ne tengono conto di questo, però il G24 ha fatto, ma sono veramente, però certo, come introiti Sky è diventato il primo gruppo, la prima media company del paese. Beh, sicuramente. Allora, primo giro d'opinione generale, la prima parte detta da Marco Mella. Ricominciamo da capo sulle impressioni generali a queste proposte del professor Marco Gambaro. Che ne pensa? Ma mi sembra che la proposta di Carius sia stata un po' come dire il re nudo e tirare un sasso in cristalleria, nel senso che è chiaro che fare questa proposta significa porre il problema a tutti di dover definire che cosa è servizio pubblico, esatto, che non è mai stato fatto e che è stato lasciato implicito, perché dire mettere a gara qualche cosa di servizio pubblico vuol dire implicitamente dire alla RAI quali sono le cose di servizio pubblico che fa, sì, che non è semplice, perché implica... E indirettamente questa sortita, sia pure in piccolo, pone il problema di come sistemare il mercato televisivo italiano, che è una cosa che è lì da troppo tempo e che non si è mai fatta. E già la vediamo seconda... due punti positivi, se posso sintetizzare. Certo, no, ma infatti la seconda cosa che mi sembra utile sottolineare è che effettivamente rispetto a 7-8 anni fa il sistema televisivo è cambiato. Nel senso che se fino a 7-8 anni fa il sistema televisivo nell'insieme era un sistema televisivo che produceva pareggi e ricchi profitti, nel senso che su un ordine di grandezza di alcuni miliardi c'erano, adesso se io metto assieme i risultati di Rai, Mediaset e Sky, quello che va ai venditori di diritti cinematografici, ai venditori di diritti calcistici, quella poca roba delle TV locali che non fanno solo per, di fatto un sistema che pur girando qualche cosa che sta fra i 7 e gli 8 miliardi produce utili risibili che non giustificano i capitali investiti. E quindi vedo che da parti diverse, da direzioni diverse, cominciano a venire suggestioni, indicazioni, richieste, preghiere di distribuire risorse e in qualche modo di limitare un po' le quantità. Da questo punto di vista, ambedue, sia l'idea di redistribuire un po' delle risorse al canone a qualcuno che fa servizio pubblico, sia l'idea di limitare la pubblicità alla RAI, vanno in questa direzione. Però mi sembra che il tema più generale sia appunto quello che mette sotto gli occhi di tutti questo tema di definire cos'è servizio pubblico, quindi e sottolinea il fatto che non tanto l'anomalia italiana, ma quanto questo equilibrio italiano di avere una RAI, un servizio pubblico che costa poco, perché il canone italiano è molto basso e lo era anche prima degli abbassamenti recenti fatti dal governo rispetto a quello degli altri paesi europei. Avere un servizio pubblico economico grazie all'orientamento commerciale della televisione pubblica è una cosa che è stata utile per tanti anni, per 30 anni ha dato televisione, 40 anni ha dato televisione agli italiani ricca rispetto a quello che pagavano, ma che adesso è rappresenta una situazione che in fondo andrebbe un po' cambiata e che fa emergere tutte le contraddizioni in questo, dal controllo diretto del governo all'indistinguibilità dei programmi tra RAI e Mediaset, insomma tutti i problemi che poi di solito emergono nei dibattiti sulla televisione. Adesso abbiamo un minuto di informazioni sulle strade, poi la seconda domanda che faccio insieme a entrambi, però è la stessa, è questa. Sappiamo qual è la ragione per cui l'integrazione verticale tra produttori di contenuti e la multimedialità, a cominciare dalle grandi telco, cioè le grandi aziende di telecomunicazioni, che è un po', insomma, la strada che negli Stati Uniti mondiale è stata imboccata da molti anni. Sappiamo perché in Italia questa cosa è sempre stata franata per la natura, diciamo così, di una delle tre protagoniste televisive italiane, cioè Mediaset, e dall'altra perché per Rai avrebbe comportato, quando c'era la Telecom pubblica, un orrendo mostro di Stato, e poi comunque non è mai andata da nessuna parte per difendere la Rai così com'era. Ma questa prospettiva, che è una prospettiva che dà una risposta seria a quello che diceva il professor Marco Gambaro, cioè le risorse ormai sono asfittiche per le imprese puramente televisive se non c'è un'integrazione, no? Non potrebbe andare insieme a quella di Cairo? Cioè immaginare uno sviluppo del mercato multimediale italiano per cui si leva il no alla integrazione tra produttori di contenuti, offerta di servizi multimediali attraverso le diverse infrastrutture su rete fisica o su rete cellulare, e dall'altra parte si ridefinisce che cos'è il servizio pubblico. Un minuto di traffico e poi le due risposte. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta la versione di Oscar. Ed eccoci tornati in diretta, stiamo parlando delle proposte, delle provocazioncelle di Cairo a proposito del fatto che la RAI si rafforzerà finanziariamente col canone in bolletta rispetto ai proventi degli anni precedenti, quindi dice, o gli dobbiamo un po' di pubblicità, perché altrimenti noi privati siamo svantaggiati, oppure però mettiamo una parte dei sovraincassi da canone in bolletta per una prima vera grande gara d'evidenza pubblica, definito lo standard di servizio pubblico, tra chi si candida a prenderli offrendo quello standard di servizio pubblico. Abbiamo visto, insomma, che non è una cosa campata per aria, servirebbe a mettere a mano un sistema, abbiamo identificato ovviamente chi frena e sapete chi è, ma però contemporaneamente, siccome, come diceva il professor Gambaro, qui le risorse oramai della televisione allo stato puro sono sempre più esili e asfittiche, perché non abbinarle a una prospettiva di integrazione dell'intero sistema televisivo levando due tappi in uno? Che ne dice Marco Mele? È una bella domanda, difficile rispondere in pochi secondi, perché in effetti è... Io vedo comunque, certo va ridefinito i compiti del servizio pubblico, perché noi adesso siamo, la RAI applica una contabilità separata su una base di una decisione dell'AGCOM che praticamente fa gran parte dei programmi, sono tutti di servizio pubblico, per cui dice sempre che il canone non basta a coprire i costi del servizio pubblico. Va definito cos'è veramente servizio pubblico, non se necessariamente un programma sportivo come dice l'AGCOM deve essere servizio pubblico. E poi va ridefinito l'assetto del sistema televisivo, però nell'era di internet. Già. E questo il problema è che le risorse non bastano, perché ci sono altri soggetti che contendono le risorse, a cominciare da Netflix e forse da Amazon dal prossimo anno, ma soprattutto forse neanche Netflix o Amazon, è proprio che soprattutto i giovani vedono meno televisione e usano più altri mezzi, a cominciare dallo smartphone, quindi vedono meno programmi televisivi. Secondo me una strada è anche o si mette o non si mette il canone in gara, bisogna limitare e bisogna rafforzare la produzione indipendente e la capacità dei produttori indipendenti di tenere e rivendere i propri diritti a tutti i mezzi per far sviluppare tutte le piattaforme. Oggi sono troppi soggetti, bravo, da Sky a Mediaset, che concentrano e comprano tutti i diritti per tutte le piattaforme, e questi quindi diversi prodotti in realtà non hanno circolazione. E poi magari c'è chi si va a cercare dai pirati sul web, quando invece potrebbe circolare su più piattaforme. In fondo la mancata crescita di vulcanità è dovuta anche a questo, a un problema di mancati diritti secondari su quello che passava. Poi c'è integrazione con i produttori di contenuti, rafforzare i produttori di contenuti, poi vediamo di andare anche all'integrazione, agli sviluppi successivi di integrazione, ma soprattutto diamo pari risorse a tutti, cioè nel senso, diamo pari risorse di frequenze a tutti, perché oggi le frequenze sono concentrate, le migliori sono andate solo a pochissimi soggetti, gli altri operano su soggetti, l'Italia occupa frequenze che sono degli stati confinanti, dovrà rilasciarle, c'è un problema enorme anche qui di spazi, di ripartizione di spazi che si credeva illimitati col digitale, che non sono affatto non limitati. Non lo sono affatto, e anche qui bisogna, in questo, approfittando anche del fatto che bisogna restringere le frequenze, rivedere gli assetti, le reti, sicuramente. Per esempio, una domanda che non hai fatto, ma che ti faccio io, anche sono sicuro che ma la Rai deve avere 13 canali digitali. Ma quando mai? Esatto. Allora, come vedete, Marco Mele aggiunge considerazioni che appaiono tecniche, ma sono strutturali, per cui bisognerebbe mettere mano complessivamente a queste questioni. Che dice il professor Gambaro? Ma dunque, rapidamente, tre impressioni. Sulla questione dell'integrazione verticale sulle telecomunicazioni, io non sarei così sicuro che quella è una strada definita. No, è un'ipotesi, ha ragione. Il recente accordo, emerge acquisizione tra AT&T e Time Warner, è una specie di riedizione di un tentativo che Time Warner fece già anni fa e che naufragò miseramente. Con esiti, esatto. Nel senso che tutte le volte che quelli di telecomunicazioni e quelli dei contenuti si sono messi assieme, non sono mai riusciti sulla a combinare. Carta era un'ottima, straordinaria, però in concreto difficile. Ok, seconda osservazione. Nel DNA delle società di telecomunicazioni c'è l'ingegneria delle reti e non la comprensione. Verissimo. Di come funziona. Secondo punto. La definizione del servizio pubblico è effettivamente un tema chiave, ha ragione Marco quando ricorda la definizione variopinta che ne usa la RAI. Noi avremmo un punto di riferimento, che è quello della definizione del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, nel settore elettrico, che è molto più rigorosa e che peraltro implicherebbe una definizione di servizio pubblico molto più circoscritta. Esatto. Perché le aree di digital divide, dove è giustificato l'intervento pubblico anche in accordo con le restrizioni europee, sono quelle in cui è impossibile fare operazioni di mercato. Quindi lì c'è una definizione piuttosto precisa di servizio pubblico. Che mi piace molto da mercatista, che in Italia è iperminoritaria, perché veramente sarebbe circoscriverlo benissimo. E avrebbe però un criterio oggettivo di riferimento italiano e internazionale. La terza, brevissimamente? La terza è che sulla questione dei diritti e dei produttori indipendenti è giusto, i produttori indipendenti dovrebbero trovare il modo di svilupparsi, però i produttori indipendenti, se vogliono i diritti dei canali secondari, dovrebbero rischiare dei soldi. Esatto, e non e avere posizioni commissionate in tutto. È un po' complicato in Italia. Dove i produttori hanno i diritti, rischiano una parte dei soldi delle loro produzioni, cosa che in Italia fanno raramente. Vero. Allora, io ringrazio il professor Gambaro e Marco Mele che vi hanno dato elementi concreti.